L'aspetto fisico, dopo quello della salute, è quello a cui teniamo di più. Ogni giorno in tutto il mondo le persone spendono miliardi per la bellezza del proprio corpo, e questo è anche lecito. È giusto che si dedichi tempo e denaro per avere un aspetto decente, aspetto che viene suffragato anche da un abito decoroso. Ma quando nella ricerca della bellezza fisica è superato il lecito si creano seri problemi. Perché per quanto ci si impegni a voler essere attraenti e soprattutto giovani, inesorabilmente siamo destinati ad invecchiare. Anche invecchiare non sarebbe un problema perché se una persona di 100 anni ne dimostrasse 20, per lui non sarebbe un dramma. Ma poiché invecchiare significa perdere l'aspetto giovane e giovanile, il problema rimane. Questo desiderio di rimanere giovani o di desiderare di non avere l'aspetto di un anziano è un riflesso di un principio divino che riposa nel cuore dell'uomo, cioè quello di tendere all'eternità. Ma secondo i piani di Dio, accanto ad una culla C è una bara che attende colui o colei che la occupa. Poiché il desiderio innato dell'uomo è quello di non invecchiare, è evidente che di fronte ai primi sintomi di vecchiaia inizia una sorta di lotta affinché questa non sia evidente, e così, quando i capelli iniziano a diventare bianchi, specialmente le donne, ricorrono ai ripari tingendoseli. In questo modo vediamo persone che hanno 50, 60, 70 anni ancora, con i capelli di un colore giovanile da fare concorrenza alle giovani. La parola di Dio non si esprime ovviamente se sia lecito oppure no tingersi i capelli, ma se lo scopo è concupiscente, cioè quello di non voler apparire per quello che si è per natura, allora si inganna il prossimo oltre che se stessi, e ciò non è certamente accettabile. Purtroppo, per quelli che hanno paura di o che non vogliono invecchiare, ci è un sintomo di vecchiaia che non perdona, che è evidente a tutti, e che non possiamo togliere così facilmente. Sono le rughe. A meno che non si intervenga con un intervento chirurgico, le rughe sono il risultato del passare del tempo sul nostro corpo. Sono le tracce di quei giochi della fisionomia che esprimono le nostre paure, le nostre preoccupazioni e i nostri risentimenti. Perciò le rughe non sono solo inevitabili segni del tempo, ma esprimono anche ciò che non diciamo, e per questo il viso diventa il biglietto da visita della nostra anima. Poiché tutti noi non vorremmo avere delle rughe, per poterne evitare alcune facciamo delle riflessioni tratte dalla parola di Dio. Non è certamente una novità che il nostro volto rifletta la nostra salute. In caso di malattia la prima cosa che guarda il medico è il nostro aspetto fisico, e l'espressione del nostro volto. Un viso raggiante, uno sguardo pieno di vita, delle guance rose rivelano lo stato della nostra salute. E molte volte anche il nostro stato morale. Proprio per questa nostra caratteristica, troviamo nella parola di Dio tre episodi nei quali il volto delle persone viene trasformato. Il primo episodio lo leggiamo nel libro dell'Esodo, in merito a Mosè quando era sul monte Sinai con l'Eterno, o Yahweh, la divinità di Israele. Così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane né beve acqua. E l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza, non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno. Così, quando Aaron e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo volto era raggiante, ed essi avevano paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, ed Aaron e tutti i capi dell'assemblea ritornarono da lui, e Mosè parlò loro. Dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono, ed egli ordinò loro di fare tutto ciò che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Come Mosè ebbe finito di parlare con loro, mise un velo sul suo volto. Quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori. Uscendo fuori, diceva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la pelle di Mosè era raggiante. Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. Esodo 34, 28, 35. Troppa gente legge la Bibbia con troppa leggerezza, non tenendo conto che ciò che è stato scritto per nostro ammaestramento. Perciò l'episodio di Mosè, il suo volto raggiante come risultato della sua presenza davanti all'Eterno, per 80 giorni, ci rivela che l'uomo più si avvicina a Dio, più ne accoglie la gloria che lo trasforma, assomigliando sempre più al suo Creatore. Un po' come colui che si espone al sole. Se l'uomo non ricevesse danni dal calore e dalla luce del sole, più vi si avvicinasse, più diventerebbe lucente come il sole. L'episodio di Mosè sul Monte Sinai non fu ignorato dall'Apostolo Paolo, che lo ricorda nella sua seconda lettera ai Corinzi, e dopo aver considerato che il messaggio e il ministero del Vangelo era superiore a quello dell'Antico Patto, conclude dicendo: «E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito», 2 Corinzi 3, 18. Perciò, secondo il piano di Dio, chi si avvicina al Vangelo. Il secondo episodio dove il volto di una persona viene trasformato è quello di Gesù sul monte. Ecco come lo racconta l'Evangelista Matteo. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte, in disparte, e fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Matteo 17, 1 a 3. Benché fosse figlio di Dio, Gesù era un uomo a tutti gli effetti, e questo spiega perché. Il suo volto divenne come il sole quando parlava con Mosè ed Elia. I due profeti non appartenevano all'ordine delle cose terrene, e poiché Gesù apparteneva al mondo presente, trovatosi a contatto della gloria futura, ne subì gli effetti sul proprio volto. Come niente nell'avvicinarsi al sole può rimanere tale quale era prima, così chi si avvicina alla gloria celeste ne rimane positivamente contagiato in tutto il proprio essere. Il volto di una persona è una delle prime parti del corpo ad esserne trasformato. Ho notato questo spesse volte nel portare il Vangelo. Parlavo con persone dagli lineamenti, dal volto duro, dall'espressione cupa con strane rughe, lineamenti che si facevano ancora più marcati quando erano presi dalla lotta di prendere una decisione per Cristo. Ma una volta arresi a Cristo, dopo essersi sottomessi alla sua signoria, il volto si trasformava al punto che amici e parenti chiedevano che cosa era successo. Non erano passati da un centro di bellezza, non avevano fatto il lifting, ma era la vita eterna a essere entrata in loro, vita che produceva un benessere morale, il quale a sua volta si ripercuoteva nel fisico. Per quanto ne siano scettici gli atei e gli ignoranti, l'uomo è composto non solo di un corpo, cioè di materia, ma possiede pure un'anima e uno spirito. Lo dimostra il fatto che la trasformazione del volto in chi ha posto fede in Cristo non è stata chirurgica, perché la persona è quella che era prima di credere. Il terzo episodio dove il volto di una persona viene trasformato è l'episodio della morte di Stefano. Così lo racconta l'Evangelista Luca. Allora i sommi sacerdoti istigarono degli uomini che dicessero: «Noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Ed citarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e, piombatigli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. Egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Atti 6 e 11 meno 15, 55, 56. Il martire Stefano stava per Raggiungere coloro che lo avevano preceduto, vedeva Gesù nella gloria, e una simile esperienza non lascia intatto chi la fa. Il volto di Stefano si era trasformato adeguatamente alla gloria dell'esperienza, come del resto si adegua il volto di chi vive nell'immondizia del peccato, del tradimento, della lussuria, dell'odio. Nessuno, ma proprio nessuno, può rimanere indenne dal modo in cui vive. Che egli sia santo o peccatore, sia lavoratore della terra o professore, sia giovane o anziano, sia saggio o stolto, tutti portiamo nel nostro volto le conseguenze o i risultati di ciò che facciamo o diciamo. Afferma il libro dell'Ecclesiaste: chi è come il saggio? Chi conosce l'interpretazione delle cose? La sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. 8.1. Quando una persona diventa figlia di Dio mediante un atto di fede in Cristo, Gesù non solo riceve in dono la vita eterna, ma possiede anche la grazia di realizzare che il suo volto si trasforma, e tante volte, spesse volte, i suoi lineamenti diventano dolci, amabili, certe rughe spariscono, al punto che certe persone ringiovaniscono. Gli istituti di bellezza dimenticano che un'anima limpida, serena, piena di amore e di fede è la condizione più importante per conservare la giovinezza del corpo, soprattutto quella del volto. La cosa più saggia non è cercare di non avere rughe o di non invecchiare, dato che questo è inevitabile, ma la vera saggezza si preoccuperà di avere rughe e di invecchiare alla presenza di Dio, perché verrà il giorno che avrà il volto di un angelo come Stefano, la faccia risplendente simile al sole come Gesù, e il volto raggiante come Mosè. E questo non solo per un tempo, ma per l'eternità. Settembre 2005. Ellero.